romanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Anche oggi siamo qui con Avanzi di Manera, questa piccola trasmissione di mezz'ora dove ci occupiamo di recuperare notizie, insomma, non sempre da prima pagina. Qualche volta capitano anche notizie conosciute che però ci incuriosiscono particolarmente, ma di solito andiamo a scovare quelle notizie un po' meno trattate dai mass media. È vero, Daniele Ceva? È vero, caro Manera. Tanto buongiorno a tutti. Buongiorno, ormai siamo in aprile, insomma, quindi dolce dormire. Dolce dormire. Stava facendo lei appena ha sentito la musica è partito. Ci sono i cani. No, io tra l'altro aprile è il mese del mio compleanno. Io compio gli anni il 20 aprile come Hitler e D'Alema. Quindi personaggi siete in buona compagnia. Personaggi di una certa rilevanza. Ma noi vogliamo subito partire con le notizie. Questa che arriva dall'Huffington Post. Conosce l'Huffington Post? Come no, l'Huffington Post è questo giornale che tra l'altro la direttrice qui in Italia è Lucia Annunziata, Lucia, se non sbaglio, giusto? Giornale, esatto. Anche un po' fighetto, anche nel nome è un po' chic. Però insomma la notizia dell'Huffington Post è questa: Roma, asilo abolisce festa del papà e della mamma, gli insegnanti dicono la famiglia cambia, meglio altre ricorrenze. Io sono anche abbastanza d'accordo su questa cosa. Vediamo come è andata. I genitori di un asilo comunale romano sono sul piede di guerra dopo aver scoperto che il collegio docenti ha abolito la festa del papà e della mamma. La motivazione degli insegnanti è la seguente, dice: la famiglia cambia continuamente, perciò meglio concentrarsi su altre ricorrenze. Sì, tipo la festa della provetta per i bambini che sono nati in provetta. Ci sarà questa festa molto divertente, secondo me. Allora, vengono dei chimici. Ma i genitori tradizionali si sono lamentati perché dicono che sotto questa decisione potrebbe esserci la cosiddetta teoria del gender avversata da molti genitori cattolici, cioè per quei bambini che non avrebbero una famiglia tradizionale con mamma e papà, ma magari con due papà, con due mamme e così via. Questo qua perché dovrebbe comunque evitare la festa della mamma e del papà? Perché quei bambini si sentirebbero discriminati. Fanno la doppia festa della mamma o la doppia festa del papà? Insomma, andiamo sempre di più verso una società molto complicata, caro Ceva. Era così bello una volta quando c'era la mamma, il papà, le famiglie tradizionali che stavano insieme contro voglia, anche litigando, ma il divorzio era proibito. Sì, ma lei adesso io sono contrario. Una pippa cattolica veramente. Che no. Io sono contrario a divorzio e aborto. E lei è anche un po' omofobo, secondo me. Sicuramente. Battute sul divorzio. Allora, sono bravissima a tenere la casa. Ogni volta che divorzio tengo la casa. Questa è di Zaza Gabor. Sai chi è Zaza Gabor? Mia suocera è stata la causa del mio divorzio. Una volta mia moglie è tornata a casa e mi ha trovato a letto con lei. Questa è Lenny Bruce. Eh sì, il divorzio. Dal latino, strappare i genitali di un uomo attraverso il suo portafogli. Di Robin Williams. Molte mogli sono contrarie al divorzio perché non vogliono dividere i soldi del marito con l'avvocato. Eh sì. Anonimo, è un avvocato questo. Non ti sei mai reso conto di quanto sia breve un mese fino a quando non devi pagare gli alimenti? Questo è di John Barrymore, attore statunitense. Ma lei sta facendo utilizzo privato di un mezzo pubblico. No, non è vero, a me piacciono le battute sul divorzio. No, sono catartiche per lei queste qui. Mia moglie Mary e io siamo stati sposati per 40 anni e mai abbiamo avuto una discussione abbastanza seria da prendere in considerazione il divorzio. L'assassinio sì, ma il divorzio mai. Questo è di Jack Benny, attore statunitense. Vabbè, comunque capita nella vita di lasciarsi, di divorziare. Sempre più spesso ormai. Però c'è anche chi si impegna per i figli in modo particolare, anche con difficoltà. Questa notizia arriva dall'Egitto, la lega lei Ceva. Ho una donna in Egitto, come ha appena detto, si finge uomo per ben 42 anni per lavorare e mantenere la figlia. Sisa Abudaou, questo è il nome della donna, diciamo, ha rivelato la sua identità. È stata premiata come madre ideale. Ha provveduto alla figlia dopo essere rimasta vedova, facendo il muratore e la lustra scarpe. Sì, però un po' come lei, che lei è per fare questo lavoro, Manera, per fare il comico, lei si è travestito da comico. Da mille. Pur essendo tendenzialmente non di karate, invece mi travesto da comico. Però dico io, una che si chiama Sisa, come si fa a non capire che è una donna? Lei sa che a Roma le Sise sono le tette. Esatto. Però questa era una donna egiziana. E allora c'è una notizia che arriva da Brescia. Il cinema, che riguarda riguarda insomma anche gli arabi o comunque gli islamici più in generale, c'era un cinema a Brescia, un cinema a luci rosse, che invece diventerà una moschea, da tempio dei film a luci rosse di Moana Pozzi a moschea dove predicare la parola del profeta. Questo è successo, non si capisce se gli abitanti della zona preferiscono avere sotto casa una moschea oppure un ex cinema a luci rosse. Io non so quello che pensano esattamente gli abitanti della zona, abbiamo fatto qualche telefonata a caso, non a Brescia, per sapere eventualmente quali sarebbero le ipotetiche preferenze. Vediamo. Pronto? Volevo chiedere se lei preferirebbe avere sotto casa un cinema a luci rosse oppure una moschea. Lei cosa preferirebbe? Veramente nessuno dei due. Sì, ma dovendo scegliere. Non saprei neanche, guardi. Cioè, secondo lei forse preferirei il cinema a luci rosse. Perché come tipo? Perché ritengo che in questi tempi avere una moschea è pericoloso. È pericoloso per quale motivo? Per gli attentati che ci sono, per che ne so. No, io non sono razzista, guardi. Però questi jihadisti che ci sono, questi estremisti integralisti, potrebbero all'interno della moschea potrebbero trovare spazio per i loro estremismi, diciamo. Bravo, così. Bravo. E invece di quelli che frequentano i cinema a luci rosse, cosa ne pensa? No, di quelli veramente non mi esprimo neanche, guarda. Per me li trovo depravati. Lei è sposata, signora? Io sì. Secondo lei suo marito ha mai frequentato cinema a luci rosse? Ma forse da giovane, penso di sì. Quindi anche suo marito potenzialmente ai tempi, insomma. Sì, lo penso. Quindi anche suo marito rientra nella categoria degli ex depravati, diciamo così. Sì. Però lo ha sposato lo stesso. Ma sì, si faccia quello che vuole, dai, prima di sposarsi. Poi quando si sposano, l'importante è che si comportano bene. Lei invece, dopo non la disturbo più, lei è sempre stata fedele a suo marito o ha avuto qualche tentazione anche nella vita? No, io sono stata sempre fedele. Mai neanche una tentazione? Beh, una tentazione, un pensiero, qualcosa c'è sempre, mica siamo... Ma possiamo anche dire, senza dire chi era ovviamente questa tentazione, ma in che ambito l'ha conosciuta? Cioè, no. Al mercato? Sì, al mercato. Ah, l'ha conosciuto al mercato? Chi era? Un venditore di... Sì, così? Un venditore ambulante. Ah, Pensiamo. Cosa vendeva? Carote, cetrioli, limoni, cosa vendeva? Sì, era di questi tempi, era anche utile, perché tanto le cose che si comprano sono talmente care che non si possono comprare più. Quindi lei univa l'utile al dilettevole, aveva questo pensiero erotico e il venditore le faceva anche uno sconto sui cetrioli, possiamo dire che... E suo marito mangiava delle grandi insalate di cetrioli. Senza saperne il motivo, va bene. Allora salutiamo suo marito che ha mangiato la gran frutta e verdura in questo periodo. Grazie, arrivederci. Arrivederci grazie, a lei. Grazie. Va bene, questa è la telefonata alla quale ha avuto la, come dire, la cortesia di rispondere. Cambiamo un po' argomento, cambiamo genere e la notizia è questa. Sindaco a Santa Maria Salina si sarebbe appropriato di una somma di denaro di circa 36.000 euro, i risparmi di una coppia di anziane sorelle successivamente decedute. Per questo motivo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di peculato. Il sindaco di Santa Maria Salina, provincia di Messina, Massimo Lo Schiavo, ha fatto questa operazione. Le due sorelle, malate e bisognose di assistenza, avevano chiesto all'amministrazione di custodire i loro risparmi. Il sindaco ha preso il denaro e l'ha sigillato in due buste alla presenza dei vigili urbani. Alla morte delle due sorelle avrebbe detto di averle perse queste buste durante un trasloco. Hai visto il sindaco? Nel corso delle indagini i carabinieri gli hanno però trovato a casa le buste vuote. Vabbè, infatti lui aveva perso i soldi, non le buste. Sì, perso i soldi. Non è stato particolarmente, diciamo, intelligente. Avrebbe dovuto far sparire quantomeno anche le buste. Esatto. Perché ho detto questa notizia, Ceva? Perché? Perché parliamo di intelligenza. Secondo una ricerca dell'Università di Chicago, mangiare spinaci tutti i giorni ritarda di 11 anni il declino cerebrale. Che gli spinaci facessero bene lo sappiamo dai tempi appunto di Braccio di Ferro, dice l'articolo. Ma sono gli spinaci o anche le coste? Lei sa che le coste sono simili agli spinaci. Conosce le coste, certo. Le coste, certo, io le mangio spesso anche. Dove? Al mare. Anche il cavolo mare. Nero, lei lo ma mangia. Ma le coste si mangiano solo al mare? No, le coste si mangiano. Era una battuta, Ceva, costa, sì, mare. Era una battuta che io ho fatto finta di niente per evitare di farle fare brutte figure. Quindi, insomma, un recente studio svedese, che sì, qua dice l'Università di Chicago, ma poi parla di studio svedese, ha confermato il legame che questo prezioso vegetale ha con l'aumento della forza muscolare. Quindi mangiamo grandi spinaci se vogliamo favorire e aumentare la nostra intelligenza. Ma servirà poi? Non lo so. Certo è che la prova più evidente che esistano altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattarci. Questa era una battuta di Bill Watterson, fumettista statunitense. Oppure il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Ecco, Bertrand Russell, filosofo. Lei è sicuro di sé o è più pieno di dubbi? Io sono pieno di dubbi. Bugiardo. Ma anche del fatto di essere intelligente. Ha una protervia imbarazzante, lei è una persona piena di protervia. Noi siamo invece quasi arrivati alle constatazioni del tempo, questa rubrica in cui invece delle previsioni facciamo le constatazioni per essere sicuri di non sbagliare. Andiamo, vediamo. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Guardi, non si sente niente, assolutamente niente. Adesso mi sente un po' meglio? No. Mi sente però, se mi risponde no vuol dire che mi sta sentendo. Non si sente assolutamente niente. Ma lei mi dice che non mi sente, però nel frattempo mi risponde, quindi mi sente un po'. No, è proprio, si sente una voce bassa. Aspetti bassa. Che la alzo un po', signora, così dovrebbe sentire meglio, mi sente? Chi è lei? Io telefono da Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, è una radio nazionale, la radio della Confindustria. Sì, la conosco, sì. Ecco, noi abbiamo una rubrica che è le constatazioni del tempo, per non sbagliare le previsioni facciamo le constatazioni. Chiediamo che tempo c'era la settimana scorsa, può dirci lei dove abita e che tempo c'era domenica scorsa nella sua città? Oddio, domenica scorsa c'era il sole qua, io abito a Porto Garibaldi. A Porto Garibaldi, sui lidi Ferrare, sì. Nei lidi ferraresi? Cosa c'è di bello da vedere a Porto Garibaldi? Ci sarà una statua di Garibaldi, immagino. Sì, c'è la piazza, c'è il capanno dove è arrivato Garibaldi con Anitta quando scappavano da Roma, ecco. Poi lei stava morendo e sono andati verso la Romagna, dopo lei è morto in Romagna. Perché ha scelto proprio Porto Garibaldi, Garibaldi? Perché non è che già prima che arrivasse Garibaldi si chiamava Porto Garibaldi? No, assolutamente. Come si chiamava Porto Garibaldi prima che si chiamasse Porto? Si chiamava Magna Vacca. Beh, meglio Porto Garibaldi di Magna Vacca. Sì. Quindi vogliamo dire che per chi volesse fare una gita può visitare il capanno dove Anita stava male, poi sì. Può andare in quell'altro posto dove Anita è morta. È una dove bella è morta, gita, sì. Allegra. Sì. Grazie signora. Buongiorno. Arrivederci. Guidate con prudenza. Problema. In Italia si pubblicano 60.000 libri all'anno, 5.000 titoli al mese, 160 al giorno. Come faccio a scegliere quello giusto per me? Per andare sul sicuro, non perdere, un libro tira l'altro, di Salvatore Carruba. Ogni domenica, in mezz'ora, ti aiutiamo a orientarti nel grande universo della lettura, alla scoperta delle nuove uscite e dei grandi classici. Un libro tira l'altro, la guida sicura per chi ha fame di libri. Ogni domenica alle 6.30 e alle 22.30 su Radio 24. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Bentornati ad Avanzi di Manera. Vi ricordiamo sempre che potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica avanzidimanera@radio24.it. Potete sia darci notizie strane che poi noi riporteremo qui nella nostra trasmissione, o anche indicarci qualche numero di telefono al quale voi potete essere contattati, o anche darci qualche numero di telefono di qualche vostro amico che può essere eventualmente contattato da noi. Lei ha amici, Cevo, vive in una amara solitudine. In una amara solitudine vivo, caro Manera, nella tristezza e nell'amarezza. Eppure abbiamo questa notizia che arriva da robadadonne.it, che esiste. C'è un roba giornale, da donne. C'è un giornale online che si chiama robadadonne.it, che di tipo cui, ferro da stiro. Di cui è un frequentatore di questo giornale Marco Del Conte, che è il nostro coautore, non sappiamo come mai. Insomma, però questa notizia è che i più intelligenti amano la solitudine. Sembra uno stereotipo senza fondamento, eppure anche la scienza conferma che le menti più brillanti preferiscono la solitudine. Fin da bambino, chi ha un'intelligenza sopra la media è portato a star spesso da solo perché la mente è cresciuta troppo in fretta e si ritengono infantili i ragionamenti dei coetanei. Di sicuro stare soli non è semplice, Ceva. Soli come single, soli come lontani dalla vita sociale. C'è anche la famosa solitudine del leader, chi comanda spesso è solo. La solitudine poi aumenta la creatività ed è un percorso naturale per le menti brillanti. avanti. Attraverso la solitudine l'ingegno riesce a vedere il mondo esterno in modo distaccato e raggiunge ottimi risultati senza perdersi nella socializzazione, che è inutile. Perché è inutile la socializzazione, Ceva? Adesso Manera, se lei è solo non è che deve andare a cercare la socializzazione, notizie è inutile, che la confortino crea in questo solo modo grandi subito delusioni la socializzazione. La vita è così. È così, caro Beniamino. Questa è la voce di mio figlio Beniamino. Sì, ma è Beniamino è il risultato della socializzazione. Sì. Chiamiamola socializzazione. Secondo una scoperta di Anders Ericsson, professore di psicologia presso l'Università della Florida, emerge l'importanza di un gene fondamentale per essere geni, cioè bisogna avere per essere geni il gene della solitudine, quella della introversione, ha capito Ceva? Che questo gene è in fondo da solo nella catena del DNA, c'è quindi, lui da solo in fondo è il quindi, gene. Quindi lo diciamo a beneficio di tutti gli uomini. Uomini, se socializzate facilmente con le donne, siete ignoranti, delle bestie ignoranti senza cervello. Se invece siete soli come cani e non avete trovato una donna per tutta la vita senza riuscire a socializzare mai, neanche a fare del petting tenendo la mutanda, sappiate che siete dei geni. Geni totali. Non ci credo, una notizia troppo strana. Così Beniamino. Infatti Einstein, che era un genio, però si è fatto un sacco di donne. Non è vero, non è vero, falso. Con la teoria della relatività lui diceva ma sì, si è fatto qualsiasi cesso, lui anche dei cessi. Però a proposito di sesso, c'è questa notizia che abbiamo letto su Caffeina magazine.it. E dice: il trombamico perfetto si trova su Facebook, con un click il resto tocca a te. Lei sa chi è un trombamico? Sì, è quell'amico che si utilizza solo per trombare, lo dice la parola stessa. Però c'è, sì, questa è un'applicazione che c'è sui telefonini, ma c'è una differenza. Ci sono due tipi di applicazioni. C'è quella secondo cui puoi trovare del sesso così rapido, oppure ce n'è un'altra in cui oltre al sesso tu cerchi anche una relazione sentimentale. E la differenza dell'Italia rispetto per esempio a tedeschi o inglesi è che gli italiani scelgono l'opzione appuntamento romantico molto più della botta e via, ha capito Ceva? Ho capito, quindi dobbiamo cambiare un attimo. No, vuol dire che in fondo, nonostante noi italiani, possiamo dire qual è questa applicazione? Diciamola. Mi interessa, è Down, si intitola. Si chiama Down. Si chiama Down. Che invece, insomma, vista la questione, dovrebbe forse chiamarsi Up invece che Down, direi, o no? Però è Get Down. Vabbè, insomma, adesso la scarichiamo, poi vi terremo informati di com'è andata. Ma c'è un'altra applicazione molto più interessante. Questa della Apple Watch, l'orologio che segna l'ora della tua morte. Le interessa Ceva? Lei che ormai, insomma, potrebbe anche essere prossimo alla dipartita. Allora, c'è questa app. Era in questo momento. Allora, l'Apple Watch è lo strumento della Apple, è l'orologio della, sì, Apple, che insomma sta uscendo. Chiarisca lei. E invece l'applicazione si chiama Life Clock. Uh-huh. Usa appunto i parametri del tuo stato di salute e ti dice insomma quanto ci resta da vivere. Ci resta da vivere. Però ci dice anche che cambiando il nostro modus vivendi potremo eventualmente cambiare anche la data. Potremmo allungare la data di morte. Ammesso che a uno interessi, magari uno invece interessa vivere intensamente. Un suicida. Per pochi anni. Un suicida che vuole suicidarsi nel tempo. Allora, leggiamo qualche battuta sulla tecnologia. 126 anni fa moriva Antonio Meucci, inventore del telefono, quella cosa che ti avvicina alle persone lontane e ti allontana alle persone vicine. Si diceva così del telefono, ha capito? Che invece adesso, insomma, è una cosa rispetto a tutte le altre cose che ti allontanano. È un vecchio slogan. A cosa serve la tecnologia se tua nonna non può spedirti le lasagne dal paradiso? Sempre che sei in paradiso. Ma le nostre nonne saranno in paradiso o avranno fatto dei peccati? Non lo so, mia nonna era piromane, abitava in campagna, tutte le volte che andava era lì che bruciava qualcosa, che faceva dei falò, quindi non lo so, magari ha scelto lei di andare all'inferno perché ma c'era il nonno è stato ritrovato oppure anche lui si sospetta no, che sia stato oggetto di un falò? No, io saluto le mie nonne Rosa e Maria, entrambe scomparse tanti anni fa, insomma vestite sempre di nero, mi ricordo questa cosa perché le donne di una volta quando rimanevano vedove si vestivano poi per il resto della vita in nero o in grigio. Non so, o perché ascoltavano le sue battute. Questo può darsi, sentivo le mie battute, si vestiva in nero e in grigio. Allora sentiamo cosa ci avete detto rispetto a questa applicazione dell'Apple Watch che ci permette di sapere più o meno la data della morte, vediamo. Pronto? Pronto, buongiorno signora, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? No, mi serve a niente. No, non le vendiamo niente signora, è solo un'opinione. Io non sono la patrona prima di tutto, mia sorella non c'è. Ma non importa, chiunque può parlare, le chiedo solo un commento, signora. C'è questa nuova tecnologia che permetterebbe di sapere il momento in cui si muore. Cioè, le piacerebbe sapere quando morirà oppure preferisce non saperlo e andare avanti così? Ma perché tu lo sai quando devi morire? No, sto dicendo che... Signora, signora, sto dicendo che c'è questa nuova app, si chiama, è un'applicazione per i telefonini, che permetterebbe, in base alla vita che fai, di sapere quando muori, cioè più o meno, insomma. Ecco, allora volevo sapere se lei è favorevole a questa tecnologia. No, non mi serve niente queste cose. Signora, non glielo stiamo vendendo, signora, voglio solo sapere un suo commento, cioè se lei è favorevole a sapere il giorno in cui morirà, per esempio, non so, tra 30 anni, oppure se vuole vivere inconsapevolmente. No, non lo voglio sapere, mi dispiace, ma non voglio sapere niente. Quindi potrebbe capitare in qualsiasi momento. Però io dico anche che se uno sa quando muore, magari si prepara, fa il testamento, fa una donazione, quindi anche sapere il momento della morte ha i suoi vantaggi. Lei condivide questo? È morta. Gliel'avevo detto che poteva capitare in qualsiasi momento, no? Doveva scaricare l'app. Siamo quasi addirittura d'arrivo, però oggi vogliamo finire con una buona notizia. Sul Quotidiano Nazionale c'è una pagina dove ci sono sempre le buone notizie. La buona notizia di oggi non riguarda gli uomini, ma riguarda le pecore. Dolly, pecora da primato. Tra l'altro non so perché tutte le pecore si chiamano Dolly, vi ricordo anche quella che era stata... Non è che vuol dire pecora in qualche lingua strana. Questa pecora, già quando aveva 16 anni, era stata abbandonata dai padroni perché dicevano ormai è anziana, è prossima alla morte. Come non abbandonare una pecora? Invece è stata adottata in una contea dall'East Sussex e adesso ha 23 anni, quindi un'età avanzata per una pecora, e sta ancora benissimo. Perché Ceva sta ancora bene? Non so, credo abbia mangiato spinaci, no, o abbia l'Apple Watch. Mangia solo mele. Da allora, dai 16 ai 23 anni, ha mangiato solo mele e continua a vivere. Quindi è vero, come dice il proverbio, vale che anche per le pecore, vale anche che una per mela pecore al giorno toglie il medico di torno. Quindi se nel vostro appartamento, al posto di un cane o un gatto, avete una serie di pecore e ci tenete a queste pecore, date loro da mangiare sempre mele. Renette, mi dica due o tre tipi di mele diverse. Allora, le golden, la stavo dicendo io, golden. Poi mela Renetta. La Renetta, la golden, la mela della la mela, non lo sa, non lo so, non lo sa. Allora scriveteci per suggerirci un terzo tipo di mela. Noi nel frattempo vi salutiamo. Io saluto Daniele Ceva, Pietro Lacorti in regia, Marco Del Conte il nostro coautore, e Guido Scotti, un bellissimo esemplare di maschio che qui è ricercatissimo dalle donne anche per le prestazioni sessuali di cui è capace. Va bene, lei ha salutato tutti, io invece saluto Leonardo Manera, che grazie, è qui, ciao, buona continuazione, ciao, buon fine settimana a tutti.